Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà Buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena sentito Il motore del 2000, una canzone di Lucio Dalla con parole di Roberto Roversi, una canzone del 76 che, oltre a essere un pezzo di pura poesia, ha prefigurato il futuro in modo perfetto, perché il motore di Dalla era veloce e silenzioso, di metallo prezioso, scarico calibrato e un odore che non inquina. È la descrizione dell'auto elettrica. Adesso di auto elettrica che c'è solo l'1% del totale, ma in futuro, secondo indicazioni di tutti, quindi è una decisione presa, l'auto sarà tutta elettrica. C'è uno studio di UBS che dice che già nel 2025 il 14% delle auto vendute nel mondo saranno elettriche, ma nel 2040 saranno tutte elettriche. Noi siamo un programma sulla fabbrica e quindi ci chiediamo che cosa cambia tutto questo per il mondo della produzione, per il mondo dell'industria, per chi ci lavora, e ne parliamo con Stefano Aversa di Alix Partners, che è stato, che è uno dei maggiori esperti di auto e di strategie di case automobilistiche nel mondo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Dalla l'aveva azzeccata tutta, parlando di auto elettrica aveva anche azzeccato il fatto del metallo prezioso, no? Assolutamente sì, diciamo che l'auto elettrica non inquina mentre cammina, ma sicuramente un po' di inquinamento nella produzione dell'auto elettrica esiste ancora. Nonché nella produzione dell'energia che permetterà di far girare l'auto elettrica. Sì, in quello soprattutto. Sposti l'inquinamento dalle città ad altrove. Sì, e questo cambia molto e si fa probabilmente un po' di ogni erba un fascio. Nella realtà, se io compro un'auto in Cina elettrica, le centrali sono essenzialmente centrali a carbone ed emettono, per stare nei parametri, diciamo, che si usano nell'auto, l'equivalente di 120 grammi di CO2 per chilometro, mentre in Francia, dove l'energia è essenzialmente nucleare, questo 120 diventa 8 grammi per chilometro, quindi l'inquinamento di un'auto elettrica con energia prodotta in Francia è circa 15 volte inferiore a quello di un'auto in Cina. Ecco, il tema dell'auto elettrica si lega molto al tema del nucleare, come anche ha detto Sergio Marchionne in un'intervista rilasciata pochi giorni fa. Ed è forse interessante notare che quando l'auto elettrica sarà uno standard universale, l'unico standard, non ci saranno più a un certo punto le auto a benzina, sarà in funzione anche la fusione nucleare, che è il modo veramente pulito di produrre energia, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, e potete andarvi a risentire la puntata e i contenuti speciali sul sito di Fabbrica 2.4 dentro al sito di Radio 24, e che più o meno già nel 2040 la fusione potrebbe essere qualcosa che funziona, no? Aversa. Beh, diciamo che il 2040 è sufficientemente lontano per cui chiunque si può lanciare in previsioni. La fusione è ancora una realtà dei sogni più che una realtà di questo mondo, perché ancora non si è trovato il modo di contenere appunto il processo di fusione. Si può creare, ma non si può contenere, e ancora i problemi sono ancora molto elevati. Da qui al 2040 sicuramente ci saranno grossi progressi, speriamo progressi tali da poterli addirittura considerare importanti in termini di quantità di energia elettrica che si produce con la fusione. Ah, ecco, senta, ma veniamo al tema della fabbrica, che è il tema di questa trasmissione. via via le auto diventeranno elettriche. Questo cambia tutto il processo produttivo, sia a livello di fabbrica e sia a livello di fornitori. Parliamo della fabbrica. Che cosa succede per produrre un'auto elettrica? Beh, un'auto elettrica dal punto di vista, diciamo, meccanico, come auto in sé, non è oggi così tanto diversa, lo potrà essere in futuro, ma continuerà a avere le ruote, continuerà a avere gli interni esattamente come quelli attuali, uno chassis, eccetera. Quello che cambia naturalmente è tutta la parte del propulsore, del motopropulsore e anche del cambio, perché un'auto elettrica prima di tutto non ha un motore a combustione interna, ha dei motori che possono essere anche messi direttamente alle ruote, quindi essenzialmente io potrei avere il mio cofano quasi vuoto. I quattro motori ognuno per ruota? Sì, si possono mettere, ci sono... Caspita che velocità! Funzionanti, questo ha dei vantaggi e svantaggi, cioè, li mette distribuiti ma lascia del peso anche sulle cosiddette masse mobili, dà anche dei grossi vantaggi perché ogni ruota può essere gestita separatamente, quindi con vantaggi di tenuta di strada anche. E beh, questo cambia molto la produzione, così come penso che ci sia anche un'esigenza di fare dei prodotti che siano in qualche modo flessibili, quindi progetti su auto, siccome poi le piattaforme durano anche 10-20 anni nel mondo automobilistico, progetti su auto che abbiano la maggiore flessibilità possibile per poi montarci motori elettrici, motori a benzina e prevedere varianti rapidamente sulla base della stessa piattaforma. Sì, la piattaforma, diciamo, quando è esclusivamente elettrica, quasi tutti i produttori si sono orientati a fare piattaforme dedicate. Per i motori cosiddetti ibridi, quindi in cui c'è ancora un motopropulsore a combustione interna, seppur ridotto di dimensioni, invece si possono usare piattaforme comuni. In futuro si può pensare ad avere un'auto veramente elettrica, non solo nel motopropulsore, ma anche in tutta una serie di altri componenti, per esempio la stessa frenatura, oggi idraulica, potrebbe diventare elettrica, lo stesso sterzo, quindi si possono eliminare, così come negli aerei di oggi non c'è nessun collegamento meccanico fra la cloche e i pianali di coda piuttosto che le ruote, tutto funziona attraverso comandi elettrici. L'auto elettrica del futuro può essere anche completamente elettrica, essere guidata con un joystick e quindi avere un ulteriore livello di semplificazione e di eliminazione di componenti non più necessari. Ecco, ma secondo lei quando arriveremo alle auto al 100% elettriche? Cioè, al 100% delle auto elettriche, all'auto elettrica come unico standard? Allora, la risposta veloce è direi mai, perché ci sono applicazioni che ancora avranno bisogno di un motore a combustione in termini di range, in termini di certe prestazioni, ma diciamo che siamo a un punto di inflessione molto importante, che ormai è evidente sia dal punto di vista del mercato, sia dal punto di vista della legislazione dei governi e quindi la pressione che avviene anche a livello politico, sia dal punto di vista della tecnologia. E vediamo i programmi, oggi ci sono circa 50 modelli che si possono comprare nel mondo di auto puramente elettriche, di cui circa 20 in Europa, nei prossimi 5 anni questo numero più che raddoppierà. Devo interromperla per avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate... Fabbrica 2.4. Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato. Rieccoci in linea, oggi parliamo di auto elettrica e quindi della fabbrica dell'auto elettrica. L'auto elettrica non è solo una questione di ambiente, ma è una gigantesca questione industriale. Pensate che solo i 3 produttori tedeschi di auto, BMW, Mercedes, Volkswagen, hanno stanziato per i prossimi 10 anni 90 miliardi di euro in investimenti solo per l'elettrificazione. 90 miliardi di euro solo per l'elettrificazione. Ford ha annunciato 18 miliardi di investimenti, di cui 14 proverranno dal taglio dei costi per altri investimenti, per cui dice 14 miliardi non investo più nei motori tradizionali, investo in quelli elettrici, e 4 di ulteriori investimenti. La Cina mira alla leadership mondiale nell'auto elettrica e compete con i tedeschi. Ancora oggi la Cina ha il record mondiale nel tasso di elettrificazione di auto vendute, lo 0,7%. Invece Alix Partner, che è la società di consulenza alla quale appartiene Stefano Aversa, che è l'ospite di questa trasmissione, ha fatto una classifica delle auto, dei paesi dove c'è un maggior grado di elettrificazione delle auto. Il primo è la Norvegia, anche perché c'è una politica di sussidi statali pazzesco, visto anche il fatto che economicamente l'auto elettrica non si regge. Il secondo è l'Islanda, il terzo è l'Olanda, il quarto è l'Austria, il quinto è la Svezia, il sesto è la Svizzera, la Cina con le sue ambizioni però è comunque al 9° posto, gli Stati Uniti al 14°, la Germania al 15°. E l'Italia dove si trova di bella? L'Italia è all'ultimo posto, ma questo non è detto che sia un male. Allora, che dice Aversa di tutto questo che ho detto in apertura della seconda parte? Beh, confermo i numeri, diciamo dal punto di vista delle quote di mercato è esattamente come diceva lei. Dal punto di vista dei volumi, l'anno scorso sono state vendute circa 800.000 auto elettriche o, come si vengono dette, plug-in, quindi con un piccolo motore che ricarica. Di queste 350.000 sono state vendute in Cina, cioè dal punto di vista dei volumi la Cina è già di gran lunga il primo mercato mondiale, con quasi con 43% delle auto vendute elettriche vendute in Cina. Pensi che nei primi 7 mesi del 2017 in Italia ne sono state vendute appena 1248 rispetto alle 16.607 della Norvegia? Sì, l'Italia è un po' al palo, nel 2015 circa 2500, 2016 di nuovo 2500 e quest'anno siamo sulle stesse, sugli stessi valori. Forse perché Marchionne, che è il capo della Fiat, che qui ancora ha la quota di mercato maggiore, non è molto convinto sull'elettrico. Sentite un po' le sue dichiarazioni in un'intervista. Il punto è l'origine dell'energia elettrica, da dove arriva, come si producono le batterie e qual è l'effettivo costo ambientale dell'energia utilizzata in termini di CO2 e altri elementi. Altrimenti dire che lo si fa per la salute dell'ambiente non ha molto senso. Certo, se alla base dell'auto elettrica ci fosse l'utilizzo dell'energia nucleare, allora tutto ciò avrebbe senso. Io penso che abbiamo ancora bisogno di capire. Lei che cosa ne pensa di queste dichiarazioni? Ma sul non avevo sentito questa intervista, ma sul fronte della provenienza dell'energia sono d'accordo. Non sono d'accordo sul fatto che l'auto elettrica sia un nonsense. L'auto elettrica ha un senso per certe applicazioni, ha un grandissimo senso per esempio nelle aree urbane. Il fatto di poter produrre energia elettrica in una zona remota, invece in un'area urbana avere il vantaggio di avere auto che non inquinano, quindi localmente per tutte le persone che vivono in una città ad alta concentrazione non avere inquinamento locale è un grosso vantaggio. Certamente, quindi, però comunque Fiat sta alla finestra sull'auto elettrica, forse perché non è in grado di fare i grandi investimenti dei tedeschi o dei cinesi o dei giapponesi. Ma gli investimenti sono paurosi, richiesti dall'auto elettrica, ma soprattutto in questo momento i volumi sono molto bassi, perché non dimentichiamoci che 800.000 vetture quando si parla di un mercato di quasi 100 milioni di vetture nel mondo, stiamo parlando comunque di ancora uno 0, e non solo questo, i costi in particolare delle batterie sono ancora molto elevati, per cui quasi tutti perdono soldi. Tesla ancora probabilmente sulla classe S riesce a fare dei soldi, perché è una vettura che viene venduta con tutti gli, diciamo, le opzioni a 120-130 mila euro. Quindi se parliamo di auto accessibile, quindi come la classe, la nuova modello 3 che è appena uscito, o come la Bolt della General Motors a $35,000 circa, beh, questi sono sicuramente prodotti che di soldi se ne fanno molto pochi. E quindi Marchionne, che da sempre è stato una persona molto attenta ai bilanci, e giustamente, perché ha salvato l'azienda e deve mantenerla sulla rotta, in questo processo di ottimizzazione l'auto elettrica nel breve non è certo... Ma forse certo il motivo è anche che l'azionista che ha lui non è che sia tradizionalmente, insomma, entusiasta di investire. Loro sono sempre stati molto parchi. Fiat in termini di investimento in ricerca e sviluppo è, diciamo, nella fascia dei grandi produttori di volume, non è certamente nella fascia delle Audi, BMW e Daimler, quindi, diciamo, i prodotti premium, che investono molto molto di più. Il problema è che adesso con l'auto elettrica anche i produttori di volume stanno investendo molto di più. E la Fiat sicuramente sta ottimizzando su questo fronte, probabilmente non con tutti i torti, nel senso che si stanno creando degli standard nell'auto elettrica come si sono creati nell'auto meccanica, e quindi attendere anche che il prodotto diventi sia più standardizzato, sia meno costoso e quindi più accessibile, forse non è una strategia pessima. Senta, ma parliamo dei componentisti, perché poi il nostro paese è soprattutto un paese di componentisti che fanno circa 40 miliardi di giro d'affari produttivo in Italia contro i 20 miliardi di giro d'affari produttivo dell'auto. Che cosa cambia per questa filiera? Allora, qui anche bisogna distinguere, per quelli che producono per esempio gli interni dell'auto non cambia nulla, per chi produce componenti che vanno nel motore cambia molto. Abbiamo fatto uno studio come Alex Partners proprio per capire sia a livello di componentistica che a livello di produzione dei motori qual era l'impatto su occupazione e su fatturati, e devo dire con sorpresa abbiamo visto che in realtà l'impatto non sarà negativo per ancora svariati anni, anzi continuerà a crescere in termini di occupazione. Perché? Perché la parte che sta crescendo ancora molto, intanto i volumi sono molto piccoli, ma di quelli in questi volumi la parte che è più importante è ancora l'ibrido più tradizionale, quindi non quello plug-in, quello, diciamo, con autonomia inferiore tipicamente a 50 km. E questo ancora, avendo ancora il motore tradizionale, in più aggiungendo al motore tradizionale tutti i componenti elettrici, richiederanno ancora più manodopera e complessità di produzione, da cui anche i costi. Questo per i prossimi 5 anni, almeno fino al 2023, e probabilmente anche si comincerà a vedere nel 2025 potenzialmente un primo impatto, un primo calo. Molto primo calo dei costi necessari da sostenere. Non tanto dei costi, ma calo proprio delle produzioni di motori tradizionali. Quindi nel 2020 ci sarà un calo delle produzioni di motori tradizionali? 2025 un calo delle produzioni di motori tradizionali. Pazzesco! Dobbiamo chiudere la parte radio di questo programma. Però la conversazione con Stefano Aversa prosegue sul sito di Radio 24, per cui se volete sentire il resto di questa conversazione andate su www.radio24.it, pagina di Fabbrica 2.4, e saprete tutto sull'auto elettrica e anche sull'auto che si guida da sola e anche su ciò che sta succedendo ai principali produttori di auto mondiali. Se volete scrivere, potete scrivere a fabbrica@radio24.it. Io voglio sapere che cosa ne pensate dell'auto elettrica e anche continuare a parlare di fusione nucleare che sta facendo lavorare in Italia un sacco di aziende manifatturiere ad altissimo valore aggiunto. Comunque, intanto bisogna chiudere. Collegatevi al sito di Radio 24 se volete. Viva le fabbriche, viva l'acciaio e viva i robot. Buon sabato a tutti.